faccio la bomboletta e faccio fare. E così che è andato mio figlio, ha detto più che due o tre fossettini no, ah no, non li prende. Io invece ho fatto come Antichi Domacco, invece due tenni passava di 12, pensava che e passava più liscio, invece mi ha rovinato in i timpani dell'orecchio e la voce un po' disgraziata. Adesso sta facendo quella specie di aerosol o mare? Sì, di quella bomboletta sono, no? Hanno preso, ho buttato tutto. E tanto sono ancora così, perché sì, è una settimana senza prenderla, sono sempre un po' rauco. È l'unica che piglia la cosa, come si dice, lo sciroppo per la gola, capito? Oppure latte e miele che fa bene, capito? Ma il latte io lo prendo, latte sera lo prendo tutti i giorni, non soltanto che a pranzo che mangio quello che c'è pronto, ma il latte la sera e la mattina, 3-4 fette biscottate, secondo a quanto ce l'ho la glicemia, 3-4 fette biscottate e buh. Ma nel latte ci devi mettere un po' di coso, senza latte bianco con un po' di miele, e fa bene, capito, perché fa sudare e fa bene anche la gola, capito, riesci un po' a respirare bene, capito. Qui non ci ne lì, bisogna lasciarla a parte. Lo sai che sono diabetico, di meno se ne mangia e meglio è. Ma lo so, Mario, lo so, purtroppo quando c'è una persona, c'è quella cosa lì, deve seguire la cura e tutto quanto. Una cosa dicono, il gatto maschio si frega una volta solo. Su culo maschio, va, per il coso maschio si butta in un asio una volta solo, c'ha ragione. E tutto bene? Insomma, così, tirando avanti, aspettando che quello là si decida a telefonarmi per darmi gli ultimi soldi e poi vediamo un po' cosa ne esce fuori. Adesso ho parlato, a mattina ho parlato all'assistente sociale, ma devo portare questi documenti al 22, sto aspettando che il 22 aprano questi per fare questo foglio qua dell'ISE, glielo consegno e poi si prenderà una decisione lì in via Zara e cercano di farmi fare qualcosa, assistenza alle persone anziane, al verde, oppure... È logica, una piccola denuncia a questi animali ci vogliono, e quando mai uno va a lavorare perché c'è bisogno, perché se non aveva avuto bisogno non aveva cercato lavoro. Lavoro e non viene pagato, quella è la cosa più brutta che esista. Se lo fate in Gallura o se lo fate in Sicilia, campa poco questo. Giustamente, ma campa poco assai. Ma non è il fatto che non ce li hai i soldi, questo già ce li hai i soldi, solo che è male pagatore, lo frisci. Se ce l'hai sui, quelli degli altri sono sui, a carino, l'hanno capito. Quello è che stiamo andando come stiamo andando, porca miseria. Buongiorno, buongiorno. Ciao hermano, ai tedeschi, ma tedeschi, perché se fosse stato a caso ritornando indietro una passata di quella persona là, del fascismo, vede che questa storia sarebbe tutta sparita. E non ti credere, anche in Germania, ma oggi c'è una crisi fenomenale, ce l'ha detto in telegiornale, ma è tutto lì, che ha un po' hanno gradito è il Giappone, è la Cina, il resto tutto andato a tamburo. Giappa, è bello. E così, ho detto, siamo in mano ai tedeschi, se noi le questioni qua non cambiano, se no questi qua del governo non si riducono gli stipendi, andiamo in malora, hai capito Mario, andiamo in malora. Cari, ti devo lasciare l'una meno 5, mi devo fare l'insulina, grazie della chiacchieratina, buon pranzo. E salutiamo a tutti quelli che c'hai a casa, alle prossimine. Ciao Mario, buona carica, buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossimine, dai, ciao. Buona Pasqua. Buongiorno, Alessio. Sì, sono da un'ora chiamandovi, sono la Sete Bianco. Buongiorno Mario e buongiorno Giuseppe. Aspetta lì, ti ho sentito, mi stavo allungando quando mai, Antonello non lo saluto. Buongiorno Antonello e buona Pasqua anche a te. Se dopo il Capodanno ho la Befana, è tutto lo stesso. Intanto vanno e vengono, mio Antonello. Ciao Antonello, buona carica. Soltanto Mario, tutte le feste sono ormai tutte assieme adesso, sabato e domenica, bisogna lavorare da lunedì a venerdì, fate il culo e pagare le tasse, l'unica cosa che bisogna fare è quello. Avanti Giuseppe. Caffa, giustamente, bisogna farci il culo, però bisogna avere anche la cosa di farci dare i nostri soldi, hai capito? Ma c'è qualcuno non ci sente, allora dobbiamo pagare a capire un altro modo. Buongiorno a tutti, buon Ferragosto, un saluto particolare a Mario Mao, presidente della Cina. Buongiorno a tutti, buon Ferragosto, ho detto, Claudio Sparghiero, un saluto particolare al presidente della Cina. Mario, devo dire che ha fatto pure il team, Mario, perché doveva fare l'insulina. Mario, buongiorno e auguroni. Buongiorno Giuseppe, buon Ferragosto a tutti e io mi sono entrato a mezzo giorno al lavoro. Capito mi hai? Dovevo andare fuori, però ho mandato mia figlia e mia moglie, siamo rimasti a casa. E cosa vuoi fare Giuseppe? Cosa vuoi fare? Non c'è niente da aggiungere, niente da fare. Solo ancora io ci sento domani mattina o dopo domani per vedere cosa conclude, se saldarmi il debito, capito? Adesso vediamo un po' cosa. Me ne ha dato solo la metà, hai capito? Cla? Mi sarebbe bastato, grazie. Avevo pigliato, non avevo molto. Mi sarebbe bastato. Quella è la gente che va avanti, mi dice, non hai capito? Quella è la gente che va avanti. Purtroppo, claro, cosa vuoi fare? Io più altro che non posso fare, io pure rimane in atto non gliela posso, non gliela metto. Io vado via le gare e se vuole arrivare a quello, io non ci posso fare niente, claro. Non deve sporcare le mani, Giuseppe. E c'è una persona seria, a futtellini, vedi un po' se riesce a recuperarli normalmente. Però guarda, è veramente una vergogna, cazzo, una vergogna che esista questa gente. sai, cioè si dice un mangia merda, perché uno che prende la gente a lavorare non la fa, è un mangia merda. Okay, c'hai ragione, sai cosa vuol dire, purtroppo. Esistono nel mondo, esistono queste persone, e cosa vuoi fare? Sai cosa gli ha detto quando gli ho passato a mia madre? Mia madre gli ha detto, ma insulti, non stiamo incassando qua e là. Ha detto, se non gli piace Antonio, che se ne rimanga a casa. No, gli ha detto, mia madre, mio figlio non rimane a casa, pretende di avere i soldi che va lavorato. Dunque, non sta chiedendo altro. Deve solo vergognare Giuseppe, credimi, come un fratello, si deve vergognare, capito? Perché è un grandissimo miserabile, già ce li ha i soldi, già ce li ha i soldi anche tanti, ne ha tutti i miei, lo conosco, neanche tanti soldi, solo che lui i soldi li ha fatti così, bruciando la gente, capito? Prendendo la gente a lavorare e non pagandola. E i saienti, noi da dire in terra, è da munire un cannavo a cui a fugarla, capito Giuseppe? Solo con quello lui ha finito di truffare le persone meste, miserabile, grasso garogna, puzzinoso. Beh, purtroppo, vabbè dai. Ok, dai, io vi saluto, vado a fare un po' di carica e ci sentiamo tutte le prossime. Riprendi Antone, dai. Sì, è andato con strada. Ti metto l'avvocato, non è che ricoprire subito come... Io sono già 5 anni, l'unica cosa che ho pagato è subirsi 86.000 euro di 12 anni di lavoro, dove lavoravo prima, già lo conosce Claudio a Rivalti. Adesso dovevo fare il processo, non so se quest'anno o il prossimo anno, e quindi dovevo dare tutti gli stipendi. Cominciamo. Quindi la vedo, sono stato fortunato che quando abbiamo denunciato c'era la manuela della fissa, se no me l'aveva calcolato anche a me. Quello Antonello sai, no, e Claudio lo sa, io non ho mai fatto né denuncia né niente, non ho mai denunciato a nessuno, io pretendo solo una cosa, che il lavoro quando io te lo faccio vengo, devi essere in grado di poterlo pagare quello del lavoro che ha fatto, capito? Prendendo di avere quei miei soldi, hai capito che io me li sono sudati dalle 8 di mattina sino alle 7 di sera, non so se è poco o quanto ne... Un bel, non so, ma sono tutti così, purtroppo sono tutti così a Sassari. Quando si prende un lavoro bisogna stare molto ma molto attenti, se ti prende per una settimana, massimo una settimana la prova, dopodiché se ti fai contatto se lo puoi fare a tempo determinato o non determinato, bisogna stare attenti, perché adesso c'è la possibilità di licenziare quando vogliono, il discorso è quello, adesso se riesce a buscare un posto di lavoro come si vede, bisogna stare ben attenti, ma le leggi nuove purtroppo se grave si butti da fuori. Sono una gente che lavora con il governo, capito? E quindi tutti possono licenziare in qualsiasi momento, anche l'opportunità di lavoro per dire. So Antonio, però il discorso è questo, che devo stare attento anch'io, perché quando se ne fanno un controllo, io non sono assicurato né niente, deve stare, capito? Devo stare attento perché se fa una denuncia passo casino io e lui, capito? Soprattutto. Lo so, ma così. Prima che io sono 5 anni, se così prendi si piglia, ho fatto niente, ma... Invece di me c'è un altro ragazzo, cioè quello che lavorava nel distributore che c'era in Carabuzio all'inizio, dove c'era la Raizzo prima. E quello poveraccio c'era più di 20 anni lavorando lì. Ed è in causa, il principale deve regalare 250.000 euro, figurati tu, l'hanno condannato a pagare e ancora non ha pagato l'accidente. Purtroppo, il discorso è questo, che lui non c'ha niente intestato, capito, non c'ha nulla, è tutto intestato alla madre. E lui con quella scusa, se ne lava le mani, capito? Credo di credere, a quanto so io, anche se il momento è fatto ai figli o qualcosa del genere e pagano i figli, non è più come prima, che prima ti bruciavano e non riusciva a recuperare nulla. Oggi da recuperi, non preoccuparti. Capito? Si può trovare un metodo, è come non pagare per dire la l'Equitalia. L'Equitalia sta tranquillo che se non paghi tu gli altri pigliano la roba. Sì, già che è stato qualcun altro, poi te la prendono, non sono così fissi, il tempo si è cambiato, se c'è una raschiare, tu di me non rispondo più. In campa, dai, vabbè dai, comunque vediamo un po' adesso, io domani o dopo, faccio un salto, voglio vedere cosa mi mette in mano nuovamente, io se scendo giù, io prima di telefono, se scendo giù voglio tutti quanti i soldi. Le 360 euro le voglio tutte, uno sopra l'altro, e poi si arrangia, hai capito? Cerca di scenderci, le devi fare a poco a poco, se ti dirà, c'è un giorno di giorno di giorno, se no basta che qua tu aspetti quando in casa, la sera, e ti racconto di fare sopra in casa, quello che ti tocca, poi devi arrangia con l'altro, capito? Vabbè, per il resto tu, tutto a posto, sì. Oh, raga, non so se ci sentiamo dopo, dai. Un cordiale saluto a tutti e buon Ferragosto a tutti. Ciao Giuseppe. Tieni duro, non so cosa dirti, tieni duro e soprattutto tieni la calma. Ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao Antonello, ciao Giuseppe. Ciao Claudio, buon pranzo, buona carica pure a te e salutami il cuore. Grazie Giuseppe, altrettanto, buon Ferragosto anche a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hai capito, Antone? È così. Ma... stavo dicendo, per il resto tutto a posto, sì. Sì, sì, tutto a posto, io. Meno male. Fortunato perché... mi ha anche soldi... un giorno prima, quindi ho festeggiato, almeno ho festeggiato. Ho trovato bene le cose, quindi... è stato bene. Adesso, il resto me lo devo dare... quindi a me non mi stanno piano piano, sono comprato per quello, a me non già mi dà, perché i giorni guardati se non ci vado, gli ho già detto, rimango a casa e non sto a casa tranquillo. In casa, vabbè, almeno tu hai trovato una persona che ti sa capire, hai capito? Noi... non ho trovato la figlia anche perché se lui incassa, incassa anche io, se lui non lo paga no, deve rimanere anche senza niente, capito? E il discorso è quello là, perché quando mi prego come guarda mi sapevo quello, ma non come faccio tutto per forzare il valve, capito? Mi ha separato, grazie a Dio. Se il tocco rotto magari in difficoltà, anche perché non c'è che lo paga, ci sono tutti i numeri che è un casino. Non riesce a trovare i piedi, fai lavori che pagano dopo 3-4 mesi, non esistono, capito? E sono lì che dopo quelli che tutti vengono un lavoro prima e poi che sono i soldi, a parte che si arrivano l'apparato di incisione che non fanno la lavoro. Se non li che vengono a pagare, se non paga. A proposito, Antonio. Io c'ho una cosa che mi hanno dato... che mi ha dato Daniele, ma è per dare delle, sono delle razze tipo d'acciaio, tipo una scheda, hai capito, di computer, ci sono tutte queste lastre d'acciaio e ci sono anche bobine di rame. Se sei disponibile stasera io te lo porto e te lo faccio vedere questa cosa. Fa caso, fammi quando vuoi, non c'è problema. E vabbè dopo le 5 io salgo, ho capito, verso le 5 qualcosa. Comunque va bene, non problema. Chiedà, almeno vediamo un po' cosa possiamo fare con questa cosa. Ci sono anche delle bobine nuove, hai capito? Se riusciamo a fare qualcosa, a inventare qualcosa, per qualche... modificare qualche cosa, riportare qualche antenna, hai capito? Ci sono delle bobine, una grande e una piccolina di coso di rame. voi potete mantenere la K con quella bobina di esame che c'è nel corso. Ah, si può recuperare, si può fare, perché non è il problema per quello. Sarebbe facciamo la canotte per quello possibilmente si cavo e io dico facciamo col capo di rame. E vediamo come esce fuori. Capa, hai capito, quello li volevo fare, vedere un po'. Non dici bene, non dici male. Quindi che deve essere curato, adesso questo deve fare il gaffe, senza venire al muro, cementare col cemento rapido, aspettare almeno 3-4 ore di asciugli, dopodiché ci sta l'impalo dei scopi sul grandente. E capa, dai. Vabbè, ci potrebbe anche andare già sera a prendere le zampe e a fare. Già, sono bene, adesso qua. Io ho trovato la bazooka, funziona tutto bene, ma c'è qualcosa di figurati. Se avessi avuto una gaffa, se l'avessi piatta direttamente in casa tua. Avevo cambiato il cavetto e sono andata bene. E vabbè dai, ora parliamo stasera quando arrivo a casa tua, capito? D'accordo, non chiuda. Io chiudo, ci sentiamo al limite stasera, quando passi qua. Ciao Giuseppe, a dopo. Ciao, ciao Antonio, buon pranzo. A te tanto, ciao. Attento, il vaccino ci spieghi. Attenzione, Becco. Avanti. Vicino. Buongiorno. Buongiorno a lei, dov'è? Da Valdetta. Dove è nulla, è entrato a casa. Lavorando. Se stavi lavorando. No, negativo, no, stavo portando una cosa da mangiare a una persona e sto entrando. E tu dove sei? A dopo. E calma, adesso faccio a pigliare il caffè, anche la tua. Passa, non c'è problema. Sto arrivando, va. Oh, yeah. Cava, cava. Oh, yeah. Io non ho fatto nulla. No, negativo. Oh, già. Vabbè che me ne sono andato a vedere, no, mezzogiorno, va. No, era... mezzogiorno o qualcosa. E come mai? Io le piccole ho fatto. No, ero... guardandomi la televisione e dunque... le quasi le 4. Ah, cava cava. Vabbè. E cosa c'era? Qualche film porno? No, non c'era un film porno, diciamo c'era un film a corro Romania. È un film bellino di West. Teleromania, Teleromancia. Secondo lì è capito. E dunque. Vabbè dai, sto salendo fra 5 minuti. La TV su Sinca è quella lì. Diciamo che stamattina a Luna c'era entrato Coso, è entrato Mario, abbiamo fatto un piccolo discorsetto, abbiamo parlato del più del meno, poi è entrato Alessio e poi sono entrati tutti quanti, giusto per farci gli auguri di Faragosto, dai, capito? Grazie Mario, io l'ho chiamato prima della Luna. E non lo sentito per niente, con attacco stamattina presto. Non l'ho sentito né oggi e né ieri. Per niente. E forse lo combattavano loro, ragazzi. A Mal di Gola era Giovanni. Ah, Mal di Gola, cioè, colpi di d'aria che prende come se ne alza e c'è fuori al terrazzino qualche volta. E esattamente, giustamente gli ha detto che non è colpa dell'aria, è colpa di quel malanno che lui c'ha, che sta pigliando di coso, che sta facendo quelle medicine. Ha detto, ma non è che sta pigliando quella cosa perché si spruzza in bocca, tipo a Rosol, quella roba lì, che ti stanno facendo male, ho detto. Break. Ok, registrate il break. L'altra volta stava prendendo quello spray. Io a me un paio di volte mi ha dato, però non lo prendo perché mi facevano male ugualmente. Ok, che sono break avanti. Capa, buonasera Gio Maria e buonasera anche a te, Giuseppe. Buonasera, ciao Antonio Pomporino. Capa, bene mi senti con questa radio? Ce l'ho minimo un mese e mezzo ferma. Capa, mi stai arrivando 9.30, 9, 9, 10, radio 5. Capa, se 9.10 non è 9.30. Buonasera anche a te, Gio Maria. Poi a tu, buonasera. Poi intanto ci risentiamo noi, Ma più che stai ritardando un po' questo periodo, evidentemente ti sta passando la baracchina anche a te. Comunque, buonasera, ben sentito e buon Ferragosto e meglio tardi che mai. Capa, grazie. No, Gio Maria, ci sono sempre io al baracchino, ci sono sempre, sempre. Però adesso ho detto un giorno, un mese e mezzo senza usare questa radio, voglio vedere come va. Non so se sto arrivando bene nelle tue coordinate. È benissimo, qua magari Santiago è basso, però la radio è buonissima, è abbastanza pulita e è abbastanza ribombata, capito? Per cui è tranquillo e pacifico, capito? Capo, va benissimo. Che zona è la tua, Gio Maria? È una zona italica, ma la vedi, dai. Ah sì, la conosco. No, quanto? Mi sta arrivando, te l'ho detto, 9, quasi 9.30, vai, radio 5, hai capito? Però ti sento comunque, ti sento molto più, come si può dire, è pulita la radio, però non è squillante come è quell'altra, hai capito? Adesso sto facendo condensatore, l'altra, devo fare dei passi lunghi, la senti? Che cosa? Qualcuno che vuole entrare e sta mettendo portante per non fare parlare a te, o sei tu che c'hai qualcosa di turbo in quella radio? No, negativo, sicuramente c'è qualcosa di cille. E confermativo, c'è la portante, c'è una portante. Cazzo, nemmeno il giorno di Ferragosto questa, la smetto di suonare. E poi andiamo a vedere. Ma siccome non c'è individuati che sono, non li parlare molto, se no... Sì, non parlare più, perché una persona che mi si gira la moto, ma... Dico tu piando, passalo come vuoi tu, tutto quanto, dai. Un'altra cosa. Non mi ricordo più adesso, dai. Fregatela, non ti preoccupare, e dove devi andare? Rimani a Palabravo quello lì adesso, per cui almeno 5 minuti a chiacchierare, a ammazzare un po' di tempo, vai, fermati pure Giuseppe. Riprendi il bomboli. Capa, non ricoverà sai, no, pugne la bastante. Sennò come te cavanne arnesi, come te già cavanne, capa, non fa da più. Perché così l'altro giorno anche non che la erano 3 o 4, ci hanno messo la portata, non ci hanno fatto parlare, ti ricordi Giuseppe? Io me lo ricordo, nella frequenza l'imbecille c'è sempre, è come la pecora nera, no? Del gregge, no? Quando noce di gregge c'è sempre quella che va a rompere le scatole a tutti quanti, capito? E così è questa persona, è capitalmente importante. Se era importante, se aveva messa dove dico io, che se uomo venga e si faccia vedere fuori il baracchino e poi non la risolviamo veramente. Certo, ma ho capito perché devono fare gli imbecilli qua, questa gente, boh. Ma non gli conviene fare Giuseppe. E vabbè, insomma, lo sai com'è, che uno non può fare un questo tranquillo senza viene che non venga disturbato. Non ho capito perché noi, quando facciamo il questo, siamo tranquilli, non andiamo a rompere le scatole a nessuno, ci facciamo il nostro corso tranquilli e nessuno ci rompe le scatole. Però c'è da gente, l'educazione non l'ha ancora capita. Ehi, guarda che non c'è da andare tanto lontano, io lo so chi è, so chi sono, dai. E vabbè, ma vabbè, tanto dai, fai girare, dai, riprendi tu Gio Mari, dai. Ehi, dai, è stato bravo adesso, dai. Doveva aspettare, dai, avevo un po' se ce fanno lui, capito? Lo fa apposta, ha preso un po' la voce, si incazza, capito? Ma già basta, già non le mette più, là. Speriamo bene, ok, facciamo un buon ragosto anche a lui, dai, almeno si calma e tranquillo. Cappa, signorina non mi deve il coglione. Che se no, sto io, sto molto, molto, molto pesante. E stai tranquillo che non piace a nessuno. Tutti su quelli che faccio io, Oh, guarda un po', Io. Vabbè. José, rifigliatela tu. Cappa, già la riprendo io, dai. Lo sai come è fatta la questione, no? Lì il discorso è quello lì, e boh, basta, dai. E beh, come ne posso fare il agosto, Antonio? Sta a posto sul posto. Ti sei divertito, sì? Divertito. E di cosa? No, pensavo che dovevo andare a qualche posto, se sei andato al mare, se sei andato a fare qualche giro fuori, se ti ha fatto un giro fuori con i tuoi genitori e tutto quanto, capito? Adesso vediamo, ancora sono in casa, potendo riposare. Capala, va bene, dai. Riprendi tu Gio Mari, dai. Ehi, chi sa che sta facendo Mario a fare gli auguri di buon Ferragosto? Non sono sentito, lei era mio, vabbè, gli auguri non già avere davanti, però oggi sarebbe stato meglio ancora, peccato. Andate a scegliere ai candelieri ieri notte, tu andate a scegliere. Negativo. Ma Gio Mari, quando sei avanti di novembre, no, mira. Dai, da bravo, stessi, ragazzi, stai giù, ragazzi, non stiamo facendo nessun male, no? Da bravo, dai. E tu, Giuseppe? Negativo, guarda, io sono uscito con sabato sono uscito con un amico, siamo scesi a Ghiero e ci abbiamo fatto un giro lì al centro, tranquilli, e poi siamo rientrati mezzanotte e mezza, l'una, là era, e abbiamo visto c'era un po' di movimento, ho visto c'era un bel di movimento e ci siamo divertiti, no? Abbiamo passato una serata diversa dagli altri e avevo intenzione di portarci anche la canna da pesca, ma ho detto ma siamo senza esca, senza niente, ora ci mettiamo a portarci la roba di pesca lì. Cazzo che se l'avrei saputo prima, venerdì, mi sarei comprato l'esca e l'avrei messa in frigo e ce ne saremmo andati a pescare. Io sono andato qua, 3 giorni fa, dunque. Sono andato a pescare io, Giuseppe. Mi sono messo 5-6 in tasca e sono andato al mercato, ho pescato al mercato. mica c'è se appoggiare il caso al corrente, io ho pescato un lupo. E capa, hai visto che adesso o Giomari che al mercato Ani Grosso lì da Lomberto l'entrata adesso devi pagare l'entrata, hai capito? Devi pagare l'entrata, un euro di entrata, hai capito? Ecco, se l'ho alzato io non ho pagato. E la cosa che c'è tutto, la cosa che hai inviato le cose. Quando è che sono andato? Sono andato la settimana scorsa io al mercato perché dovevo trovare una persona, no? Se c'aveva sardine per farle qua a casa, mi aveva ordinato un po' di sardine mia madre, no? Dice vada l'amico tuo, se c'ha sardine ne prendi 5 euro. Ho detto vabbè, adesso provo, ci sono, te le prendo. Dice no, bisogna pagare l'entrata. Ha toccato da quando è che bisogna pagare l'entrata al mercato lì grosso? Ha detto non ne ho mai pagato io, ma proprio oggi dovete farmi pagare. Ha detto questa è cosa nuova, vabbè, ho detto. Avevo un euro, gli ho dato, ma fa culo, sono entrato. E ho detto non devo più litigare con nessuno. Ho preso un euro e gli ho dato, dai, e mi ha lasciato il bigliettino. Hai capito? Come qua? Ma no che c'era, il posto di Carnacella per caso, no? Lì alla porta, chi su, nipote mi sembra che sia, di Carnacella, e chiede il suo, sta stato quello, ma tu cosa gli dici? Vabbè, no, adesso no, stai uscendo male tu, Va male, prova. Due prova. E adesso già sei tu, hai capito? No, comunque è così, Giomari, mi hanno fatto pagare l'entrata e boh, non so perché, per quale motivo. Ma sì, ma mercato, mercato in via Lomberto, io so che non si paga il mercato in goccio via Lomberto. Qualche beneficenza mi dà anche bene, perché se mi stai prendendo per il culo allora non ci sto più. Dice no è perché bisogna pagare, adesso hai cambiato tutto quanto e adesso c'è la nuova norma che all'entrata si paga un euro. Ha detto boh, a buona sapersi. Ha detto vabbè, sarà per la prossima volta che già mi vedete più qua. Qua la signorina mi sta dicendo al mercato all'ingrosso, a Pedra Nietta, dice vero che ci fanno pagare, non da Lomberto. Giuse, ma ho capito io, non si è mai pagato, a sentire adesso mi sembra strano. Non lo so, guarda, io ho detto che sono salito su Pian Umberto e mi hanno fatto pagare un euro, tu non lo so per quale motivo. Se sei uomo mettimi la porta. Lascia perdere tu, lascia perdere. Ancora mi starò. No, negativo. Mettimi la porta. Grazie ancora. Io arrivo, Giomari. Vedi a tu. E c'è sempre a tu. Ah, vabbè. A me è un contatto, adesso è un contatto tu a tu, forse adesso lo sospiri e... Se c'è lo... Perché stava, lasciamo lo farci, lo farci, vai. Sato, sento in serata e... aspettiamo lo... Ci sentiamo, Giuseppe, prendi e ascolta per il finale del giro, dai. Vabbè, dai, vi saluto anch'io, che devo fare cosa, e ci sentiamo a limite un altro momento, Giovanni, o quando, o domani, come se coincide, dai. Ma come è? Me. Ah, sto chiedendo, vai, se no quello si mette a portare se lo si ascolta. Ciao. Mi supera. Bene, fatelo buoni tutti quanti, dai. Ciao, ciao. Guaretti per me, dai. Buone feste anche a quelle acronie. Sì, sì. Non sta pensando a portarsi, va. Ciao, José. Ciao a tutti.